Nonna ne babbo ne mamma il mio caro tesoro. Eppure accesa una fiamma che non muore nel mio cuore. La mia bambina è rinchiusa in un gran monastero. Ci permettono parlare solo a loro che nel cielo. Che gran felicità!